dopo l'hai montata, che non crei problemi di insicurezza, di cose del genere, tu puoi mettere quello che ti piace e nessuno ti può dire niente. Normalmente devi fare le cose a regola d'arte, devi chiamarti, se c'è problemi di condominio, chiamarti un geometra che ti faccia un progettino, una cosa del genere, e se c'è un amico te lo fai fare e gli dici, mi questo è l'impianto o un elettrotecnico, una cosa, nessuno ti può dire niente per lei. Naturalmente se vuoi iniziare a fare un atto, ci attacchi cose strane, aumenti le potenze oltre i limiti di legge e credi subito, a quel punto ti dai la zappa al piedi perché te ne vengono immediatamente e ti bloccano tutto e ti mettono una multa da farti piangere. Non è quello l'inno. E dall'inizio, da quando ho telefonato il capo condominio, Roberto, gli ho detto, devo piazzare un'antenna, mi servirebbero le chiavi. Mi ha detto, io le chiavi le do, se mi dice che tipo di antenna deve piazzare. Io glielo ho detto e mi ha detto, no, le chiavi io non gliele do per quell'antenna lì. Perché creano disturbi, questo, quell'altro, ho detto, vabbè, questo lo dice lì. Allora io mi appello alla legge, vediamo un pochettino, dice, e faccia come creda. E infatti ho fatto come ho creduto, con certa gente non si può, a parte che un pezzo di capo che è pagato da lui, esterno, e non c'entra nulla col palazzo, quindi non ne affrutta niente. Allora sai cosa ho fatto? Abbiamo fatto il giro di tutte le persone, di tutti i condomini, mi sono fatto mettere, allora ho scritto che praticamente volevo installare un'antenna per la 27 MHz banda CB, e che mi prendevo tutte le responsabilità, in caso di disturbi avrei provveduto, eccetera, eccetera. Hanno messo tutti la firma, tutti, non ce n'è stato uno che abbia negato la firma. E hanno messo la firma, c'è uno che ha messo l'asterisco e ha scritto sempre ammesso che non disturbi, che io l'avevo già messo sopra, infatti ho detto non c'era bisogno che mettessi l'asterisco, io avevo scritto che prendevo la responsabilità se ci fossero stati disturbi per causa mia, eccetera, eccetera. Fatto sta che poi con il capo condominio manco più l'ho cercato, quello della mansarda ha le chiavi del tetto, perché lui per cosa deve, se succede qualcosa al suo pezzo che ha fatto, al suo tettuccio che ha fatto in legno, eccetera, eccetera, deve avere le chiavi sempre per vedere, per controllare. Mi ha fatto prestare le chiavi dalla moglie dicendogli che dovevo controllare un'antenna che non andava bene, la moglie me l'ha prestata e mi ha fatto un doppione, dal giorno ho fatto quello che ho voluto. Eccolo! Sì, ma è normale, a parte che condomino, capo condomino con che titolo ha? Di lì se c'è una proprietà condominiale, il tetto è una proprietà condominiale o c'è un proprietario? No, proprietà condominiale il tetto, è diviso in parti uguali. A quel punto tu dovresti avere la disponibilità delle chiavi, quando vuoi andare devi avere l'accesso libero, ma che non devi passare dentro qualche appartamento di qualcuno, tu devi passare per qualche appartamento, c'è una porta che non entra, c'è nessuno. No, c'è la porticina in ferro, tu apri, la miera, tu apri la porticina e entri dentro, e sei sopra il terrazzo, non sul tetto, sul terrazzo proprio ci passi. Sì, per cui tu c'hai il diritto di fare quello che vuoi. Aspetta, sento qualcuno chiamare. Avanti, chi è che chiama? Vedete, sono una modulazione. Aspetta, facciamo prendere a Falchetto. Falchè, quindi non è la tua quell'antenna, di chi è? Non sono, vabbè, non lo so, la verità. Questo ha installato l'antenna, io ho messo tra sabato e domenica. Però tirante non ce l'ho, invece che stasera ho messo anche i tiranti, capito? O fa che non sarà quello che si è avvicinato alla macchina mia quel giorno. Quale? Quel ragazzo che è venuto a chiedere, ti ricordi? No, quello abitava proprio di fronte a casa. No, questa è i giorni per andare ai carabinieri, capito? Quelle palazzine a schiera che ci sono dopo la chiesa, capito? Dopo casa mia, capito? Quella che è la via di porta ai carabinieri. Fa che? Dimmi. No, cacchio, sto dicendo vicino alla copa, là c'è la copa che di lì. Copa che? No, è più su della copa. No, cacchio, lo sto dicendo lì. Dove abiti tu, cacchio? Ti sto dicendo di fronte al coso, da, di fronte al, come si chiama, all'ippodromo, vicino a dove mi hai detto tu a me mi hai detto abitavi dove abitava tu vicino, no? Io abito dove abita Giuseppe, se lo conosci a Giuseppe mia a Napoli. Lo zio di mia moglie, cavolo. Ma non ho mai capito che sto dicendo. Raimondo. Ah, carità, che è duia. E poi l'altro capo mi vedo un'antenna vicino, non c'è un'antenna di fronte a te, vicino a te, dai. Vicino a me sì, mai più su, io abito dove abita Raimondo, capito? Ma tu scusa un attimino, l'hai visto il grattacielo? Facciamo dei diritti riferimenti, l'altra è il grattacielo, scendendo verso la fermata retta, dai carabinieri verso la fermata retta, gira a sinistra e c'è quella staretta che hanno fatto la chiesa nuova, hai visto? Io vado sempre dritto per quella strada di lì, e di lì c'è il supermercato vicino, no? Esatto. Tu abiti più o meno di fronte al supermercato, così è? No, io abito proprio dove c'è il muro, che ti trovi il muro di l'ippodromo. Vabbè, il muro dell'ippodromo, dai, le finestre vanno verso il muro di cinta dell'ippodromo, di lì, no? Esatto. E lì io ho visto che hanno piazzato un'antenna, io pensavo fosse la tua che l'avessero alzata, ho notato l'altro giorno che si vede dalla strada scendendo, quella strada che ti ho detto io, e l'ho vista lontano luccicando, ho detto cattami che fa che ti ho alzato l'antenna, perché l'avevo molto alta, non l'avevo mai notata da fuori, con i tiranti, ho detto buh, che strana questa antenna, e non sono riuscito a capire che antenna è neanche. Capo, ma io tiranti non ne ho. E quella che mi stai dicendo tu invece dove rimane l'antenna? Allora, quella che ti sto dicendo io, rimane, visto che vai alla chiesa, te la presente c'è quel piazzale grande, sali e ci sono le scuole, asili, cosa sia, quello lì. E di fronte lo giocano a tennis. Ecco. Sì, registrate per un attimo. Dove giocano a tennis? Sì, ho capito. Ecco, ne hanno installato una lì, non c'era mai quell'antenna, capito? Ne hanno installato una lì. Vabbè, più o meno dove sto dicendo io comunque. E io pensavo tu stessi dicendo verso quel palazzone popolare che c'è di fronte all'Inps, non stai dicendo lì tu, no? No, è all'interno, sono sempre con le palazzine, però è all'interno rimane, capito? Ma si vede dalla strada scendendo, probabilmente stiamo dicendo la stessa cosa. Sì, si vede dalla strada, esatto. Stiamo scendendo dai carabinieri verso il semaforo dove si vederla. Ciao, aspetta che c'è stato un break, ma ti devo entrare. Ciao, buonasera, ma cammino fa uno la pensata. Spegni il tetacarne Natali, ciao, buonasera, c'è Falchetto, io e Gianni dall'altra parte, facciamo riprendere a Gianni e poi andiamo avanti. Ciao, Gallo. Sì, stavo dicendo che c'è Domenico su 5, e cosa, Mario. Se vogliamo andare là... Salutarlo. Tutti su 5. Ciao, Giaccia. Lo facciamo questa diretta su 5. E andate qui, io me ne fanno la lettera, sono entrato solo per salutare. Ci sentiamo le prossime. Wow, peccato. Buonasera Domenico. No dai, compagnia di Roberto, Gianni Doppio Rue e Natalino Alfa 1. Avanti per chi vuoi dove? Ciao, buonasera, cosa ha detto? Natalino è di Talino, lui si è detto dove? Ciao, buonasera, dove sei arrivato? Ma c'è qualche altro che sta parlando, aspettate un attimino di bianco, avanti chi è l'altro che parla? Ah no, forse questo è un altro camionista, facciamo riprendere Natalino e poi a Gianni, avanti Natalino. Natalino è andato a letto a dormire. Ciao Domenico, ciao Mario, ciao a tutti gli altri amici, Doppio Rumo, avanti Domenico. La propagazione lo so fare. Avanti Mario. Ciao Romero, ciao. Ciao. come qualità di radio. No, non ti ascolto bene. Ma non è quello che ti ha regalato Luca, quello? No, quello di Luca è un altro, questo è, come si chiama, quello che c'erano su Mubicom. Gli ho fatto le connessioni e ho cambiato tutto quanto. No, voglio vedere già se è bassa, normale, come la senti più lontano, perché fa caso, siamo troppo vicini. E lontana sta come bassa o normale come radio? No, no, è come bella sentita, sì, è una bella radio, forte, forte. Vabbè, questo me lo devo portare a normale se riesco a farmi sentire da voi, dai. È scomodo da usare il microfono a palma, infatti adesso riattaccolato, dai. Un attimino che commuto l'altro apparato, dai. Mi ricordo solo la capsula di sopra. Ho messo la capsula del Sirio, ho fatto quel lavoro che mi ha detto Luca di fare, c'era un microfono Sirio, un telefono Sirio e gli ho messo la capsula, e va bene già. Te lo vea, che così me lo metto anche io, ce l'ho quel microfono. Guarda che forse te la posso buscare, lo sai, perché ne avevo due di quei cose, già te la cerco già. Se ce l'hai, mi fa una cortesia, che così me la metto anche l'unico. Sembra veramente bene, non sembra manco nemmeno 83. Vabbè, sono contento, dai, perché la volta avete detto una cagata a questo microfono, adesso ho diminuito tutto il Mickey Gain dell'apparato, ho sollevato quello del microfono, ho messo almeno la metà Mickey Gain, e mi avete detto che va bene, dai, sono contento. Ma non gli hai fatto nessuna modifica, solo la capsula. No, no, solo la capsula, gli ho messo quella del citofono del telefono. Va bene. Ciao, lo sapevo, lo stavo cercando questa capsula, ma non riuscivo mai a trovarla. Quello bianco, del Sirio bianco. Sì, del Sirio bianco. Ma che se ne c'è qualcuno, andato. Guarda già, te la devo cercare, però sicuramente te la trovo, perché l'ho messa da qualche parte, mi avevano giù due in mano, adesso non mi ricordo, aspetta, scusa un attimino, quale delle due che ho utilizzato? Sì, no, ce l'ho qua, dovrebbe essere questa qui, perché ne ho due, siccome ne volevo provare tutti e due, ma ho visto che è andata bene, per cui non ci sono problemi, dovrebbe essere questa, se capiti già, già te la do già. Vabbè, ti me la parte già. Passa a pigiarmela allora, cavagava, avanti chi vuole entrare. Questa rispetto all'altra, più bassa, più alta, cos'è? Cosa noti di differente? Compresso. Va bene, sono due cose diverse. Vediamo Mario che me la prende il sorso con l'altro parlante dell'apparato. Parla un po' Mario. Guarda. Per farti la ricevuta, ti ricordi che te l'avevo preparato per lasciarti la ricevuta? L'ho chiamato quando un 15 giorni fa, mi ha detto che era stato male, non so cosa aveva avuto, poi non si è più fatto bene. Ma tu ci capiti spesso in quel male? No, io stavo facendo il lavoro lì nell'avvocato, non è che ce l'avevo sempre lì, io lì stavo facendo il lavoro e subito, se no avresti fatto, però non ho capito perché sembrava, diciamo, si è dimostrato una persona tranquilla, non ne ha voluto approfittare, ma ha detto non me ne ha fatto nulla, dico basta mi metti la griglietta e basta, però poi non lo so, ho avuto dei problemi, perché la macchina era del figlio, così è. La sua, sarà precisa. Contento è, vabbè che tu come legge gli devi pagare il danno, poi non è obbligato uno a ripararlo, ma non mi sembra tipo che si volesse incassare i soldi, se no non avrebbe ragionato così. Quanto era? Nemmeno come l'ammetto, quanto lo sta dando, guarda. No, non mi sembra che ci ce l'ho scritto da qualche parte, perché l'ho tenuto da parte quel preventivo con la dichiarazione dove lui non aveva nient'altro da pretendere. Poi ci siamo sentiti dopo che aveva successo il fatto, una decina di giorni, ho detto ma cosa è successo? Lui mi ha detto no, sono stato male, non so cosa ho avuto, già vengo. E lo so che ancora esistente, poi se non vi viene, pazienza, già stiamo lavorando lo stesso. Vabbè, non è quello lì, no. È giusto perché un magari tipo, perché non era, diciamo, ha parlato, era un po' anche mortificato, ma io ho sempre la dichiarazione, sono testimone io già, scusa Mario, di quel punto di vista non ti preoccupare, io sono testimonianza al 100%, la mia testimonianza vale più di qualunque altra cosa, perché ero presente, lui mi ha detto certe cose, ho scritto di calligrafia mia, per cui non ti preoccupare di niente. Ok, facciamo riprendere prima Falchetto che era a riposo e poi a Gianni. Avanti Falchetto. Gianni. Vabbè, se ne trovano, ti passo le cose. Una volta mia moglie mi ha chiamato dal CISO, mi ha telefonato e mi ha detto già mi sono sbattuto una moto, questo e quell'altro lì. E questo qui era entrato in curva, si era allargato, mia moglie la sua corsia, si è allargato, non ce l'ha fatta a spingersi ed è andata addosso e si è fatto anche male questo ragazzo. Fatto sta che il padre ha detto che siccome era stato già operato, giocava a pallone, era già stato operato al coso, come si chiama, al malleo, mi pare, e avevano paura che si fosse rotto di nuovo quello, invece l'azienda si è fatto male, ma nel senso che si è preso la sbattuta e basta. Però mia moglie ha associato paraurti, faralino, ha fatto un po' di danno. È venuto il padre e mi ha detto guardi, io mi arrangio a fare, tanto qua c'è solo da cambiare un faro, il paraurti, e mi ha fatto tutto lui. Mi ho portato la macchina in garage, si è comprato i pezzi e me li ha piazzati. Ma non c'è trovato. La legge ti dice tu devi pagare il danno, quando causi un danno devi pagare il danno, non devi pagare il lavoro, perché molta gente dice no, io voglio vedere che la macchina sia riparata. No, la legge parla di danno, tu causi un danno di 1.000 lire e tu mi dai 1.000 lire, e poi la macchina mia me la posso tenere rotta, la posso regalare, la posso rotamare, posso fare quello che mi piace. Ma questo che si è sbattuto appoggiato, diciamo, non sbattuto Mario, sembrava una persona tranquillissima, addirittura c'era anche un pezzo del paraurti, ha detto non me ne ho fatto nulla di quello, così il cofano c'era una marcatura, ha detto mi fai un ritocchino a pennellino, non me ne frega mi, l'unica cosa mi cambi la griglia, perché è brutta così a vedersi. È stato molto generoso, nel senso non ne ha voluto approfittare, mi ha detto mi dispiace anche per questo signore, per Mario, so che sono soldi lavorati, eccetera, eccetera, però a me vedere così, diciamo è stato molto onesto, secondo chi trovi, ecco, ma mi assicurazione, mi fai questo, quella, eccetera. Però stranamente non è venuto a fare lavoro. Beh, io partendo il suo, mi sentisce a fare assicurazione che risalisce la macchina, partendo il suo, non è che ci voglia giostrare. Tante volte conviene più pagare i danni di tasca che fare l'assicurazione, se no aumenta in una maniera allucinante. Sì, naturalmente devi valutare anche quello, danni io infatti dico entro i 200 euro attualmente, a meno che non c'è quelle polizze che ti consentono di fare un sinistro senza aumento, qualche assicurazione lo fa, ma non sei in classe molto bassa, se no è sempre bene pagare entro i 200 euro, bene chiaro, almeno io consiglio di pagare. Poi oltre uno deve pensarci un po', a meno che non ha fatto tanti sinistri, perché c'hai quelle assicurate varie telefoniche, se fai un sinistro parte da prendere a 400 euro, ti aumentano la polizza, te la portano a 1.200, 1.300, a quel punto secondo la cifra che conviene anche a pagare di tasca. Naturalmente vuole tutto valutato questo. Poi io ero in prima categoria. In prima categoria. Sì, la classe più bassa, la prima. Ok, vediamo un pochettino, un attimino di bianco, se ci vuole entrare qualcuno, se no facciamo riprendere a Mario. Attenzione, canale 5, se vuole entrare, avanti. Ma ci ha lasciato in bianco a Domenico. Ah, ciao Domenico, scusa, te l'ho dimenticato. Riprenditela Domenico. Ma la restaurale o restaurata? E c'è qualche cazzottina da fare, no? Quindi una 500N, come ho detto, 69, e di nero quanto? No, no, è la 500N, del 69 mi ha detto, una 500L del 69, quindi proprio le primissime ne sono uscite. Vabbè, chiedo un po' in giro, e qui dentro ci sono dei punti di ruggine, roba da sistemare. cosa, che colore era, o anzi è. Va bene, adesso ti sto soltanto in mezzo al QRM, in mezzo alla propagazione, perché stai iniziando a sentirsi, cioè ti sento molto debole, cioè ti sento di radio, però il segnale sei schiacciato da questa propagazione. Ok, terrò presente, eventualmente se qualcuno me lo chiede ti farò sapere, tanto qua in radio ci sentiamo abbastanza spesso. Avanti Marietto. Costava quasi 600.000 lire quando è uscita, è vero. Oh signori, va bene, devo interrompere, mi hanno chiamato, se mai ci sentiamo più tardi o se la prossima volta. Vi saluto tutti, proseguite, divertitevi. Ciao Domenico, che sei più lontano di tutti, se mi ascolti ancora. Ciao Mario, ciao Gianni, ciao Falchetto e tutti gli eventuali amici. Io interrompo perché mi hanno chiamato. Ciao ciao. Approfitto anch'io a salutarvi, dai. Che io interrompo lo stesso. Ciao Domenico, buon trabacco, buon tutto, ce ne ascoltiamo le migliori. Ciao Roberto, buon 144, ma non lo fai. Ciao Mario e ciao Gianni, dai, tutte le migliori, ciao ciao da parte mia. Thank you. ce l'hai detto che ho preso il soffrutto tipo. Comunque l'ha detto alla stessa frequenza più o meno, praticamente quello là parte, uno parte da 100 e l'altro parte prima e finisce prima, uno parte dopo e finisce dopo, è più o meno uguale, non è che sia. Poi stasera sono più belli, un po' vicino adesso si capisce. Io non capisco, Fernando, c'è da fare che questo microfono non funziona. Cioè, se non lo metti vicino alla bocca con un microfono normale, non va. Invece, se lo piatti in macchina sulla lampada, parlo dalla sedia laterale e io guidando tranquillo, quello il microfono appoggiato sulla sedia laterale, mi sento vabbè. Posso comunque... che avvento anche la batteria, perché non te ne rimetto che stava cominciando a ronzare. Amorogna. Cosa è entrata? Non più parla. Cosa c'è? Una strumentazione oppure sono a livello aiuto? Gli abitanti attorno alla fontana, così. Dei palazzi di Mitro, fidati. Vabbè. Comunque, senti quando ti preso Emanuele. Quindi lui usa. 3 più 1. Allora 2 settimane ce l'ha. Se l'avessi potuto l'avrei tenuto, l'ho tirato a mangiare, magari si era mangiato subito. Poi è stato abbandonato. Ma a me mi sembra, non mi vorrei sbagliare, ma mi sembra un coso, un Yorkshire. Già di quelli di là, perché l'ho controllato anche il palazzo. Sai come funziona? Il palazzo quando è nero sono di razza, quando è rosa è nero, oppure sono rosa sono bastardi. Oh, così dicevano. Si dicevano da ragazzi, poi si siano incastrati cantati sotto di zero. Scendo da lì, c'era questo qui prendendo sempre in quelle campagne che vedo, e la dice Borgogna. Tu Borgogna. Insomma c'è un caldo stasera, giù giù. Ce l'ho detto già. Gracias. si è fasciato là, lo già fatto. Ho preso quello della sala, posticciamento. Se in sala non ce ne guardavamo mai in televisione, lo guardavamo più in cucina che in sala. Thank you. di la legge, ti ho detto che mi sto mettendo le cuffie. Ecco, non capisco niente qua. Pone di ricordetti. Ti ha detto Burbabuduio, che ti ho detto che mi stavo mettendo le cuffie. Così adesso chiamata la cuffia. Qua a una certa ora non si può disturbare, bisogna anche tenere un po' di cose. Le regole bisogna rispettarle. Ma se dico, una cosa, mi credi già? Cosa? Thank you. tolto. Dai, mi piace. Ha fatto vedere la manovella, ti qua. Senti, che bello, visto che è bravo. Ti ha fatto un bel regalo. E per i bambini ce n'è anche troppo, tanto fasciare di tutto. Ma se mi ho preso questa, come si chiama, non la PlayStation, l'altra, la... ma Nintendo DS. Eccolo con la telecamera, eccetera, eccetera, e l'ho preso a Città Mercato. E tutto questo qui, c'è la telecamera, si può attaccare al televisore, si può attaccare al monitor, si può attaccare al PC. E dopo c'è la PlayStation, ho avuto la 1, la 2, la 3. Se boh, io non so, capito così buoni, ti hanno fatto comprare un bel giochi, dopo anche i giochi che costavano 80 euro. Giocavamo lo stesso, giocavamo con monopattini autocostruiti, quindi avevo uno da corsa di monopattino, era andato alle ferrovie lì dove c'è in Viale Sicilia, dove c'è l'officina, mi avevano fatto dare un cuscinetto grande e due piccoli, però grande l'ho messo davanti, fatto il manubrio con tutte le borchie che scendevano, le borchie con i fronzoli. Dopo ne avevo fatto il CD, ne avevo messo la gomma a piuma, rivestito di vimpelle, nera, ci avevo anche poggiaschiena. In più il freno a mano, già lo sai come si faceva il freno a mano, no? Con un pezzo di copertone, messo con i chiodi sopra questo legno, nel legno messo al centro un chiodo, quando tu tiravi la leva andava sopra la cuscinetta e frenava il monopattino. Giocava a fossetto, poi giro a cavo anche il gioco dei tappi, perché si avvicinava più al muro. Paga fotografie del muro sono quelle che chiamano lattugi, no? Poi gli abbiamo mandato quelle fotografie del muro. Fotografie del muro? Ma io mi stavo avendo un flash. Va bene, dai, già io mi saluto, dai, ci risentiamo.